respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini, oggi quarta puntata del nostro viaggio di avvicinamento ad Ecopolis, la fiera internazionale che si svolgerà a Roma dall'1 al 3 di aprile e che Radio 24 e questa trasmissione stanno seguendo passo passo. A Ecopolis cosa accade? Accade che amministratori e aziende si confronteranno e si scambieranno esperienze su vari settori: energia, rifiuti, mobilità, acqua, natura urbana, urban design, salubrità ambientale e governance. In questa trasmissione noi via via affrontiamo ciascuno di questi temi cercando di dare punti di vista diversi che servano un po' anche ad avvicinarsi appunto ad Ecopolis. Abbiamo già parlato nei precedenti appuntamenti di mobilità sostenibile, energie rinnovabili e rifiuti. Trovate tutto sul sito di Radio 24 nella sezione dedicata a Ecopolis o anche nell'archivio di questa trasmissione. Oggi ci occuperemo di acque potabili per cominciare, acque per uso domestico. In Italia i consumi, è cosa nota purtroppo, sono altissimi: 325 litri al giorno per abitante a Milano. A Parigi o Madrid sono 120 i litri al giorno, in alcune città tedesche sono addirittura meno, 100 litri al giorno. Ebbene, a Milano 325 litri al giorno vengono utilizzati per consumi individuali, quindi per bere, per lavarsi, per lavare le cose in casa. Quindi non si tratta di un conteggio che comprende le perdite sulla rete. Purtroppo anche le perdite sulla rete però sono un altro record negativo italiano. Noi abbiamo reti che perdono fino al 70% dell'acqua, la media europea è 30%. Questi consumi sono altissimi in particolare al nord, più andiamo a sud più si riducono i consumi individuali. In Sicilia sono 220-230 litri al giorno in media. Significa quindi ovviamente che la cultura del risparmio dell'acqua è molto più diffusa al sud che al nord, e questo è abbastanza comprensibile anche per scarsità d'acqua, ma comunque si resta anche in Sicilia su livelli troppo alti di consumo pro capite. Così, nello spirito di Ecopolis, abbiamo chiesto a chi ha esperienza di questo settore a livello internazionale, abbiamo chiesto come si fa a cambiare l'Italia e gli italiani. Veolia Acqua, ed è questo il nostro interlocutore, fa parte del gruppo francese Veolia, che lavora in tutto il mondo nei campi più diversi: acqua, energia, rifiuti, trasporto di persone. Veolia Acqua si occupa di gestione del servizio idrico integrato direttamente o per conto di altri in varie località italiane. Non senza contestazioni, lo sappiamo bene, sono legate alla più vasta discussione in corso su quella che viene definita la privatizzazione dell'acqua, un tema di cui parlammo tra l'altro in passato a Respiro. Ma insomma, non è il tema della privatizzazione dell'acqua il tema della puntata di oggi, piuttosto appunto la gestione delle acque e cambiare la testa dell'Italia e degli italiani. Sentiamo Jean-Michel Romano, direttore generale di Veolia Acqua, appunto Italia. Sicuramente ci sono tre argomenti da trattare: gli argomenti tecnici, economici e sicuramente culturali. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, abbiamo oggi delle tecnologie, degli strumenti che permettono di monitorare le perdite in rete, di monitorare precisamente i consumi. Abbiamo fatto diverse innovazioni che ci permettono di abbassare le perdite sulle reti. Possiamo anche investire in sistemi di reuse. Per esempio, per quanto riguarda il ciclo dell'acqua, abbiamo alcuni impianti, per esempio nel caso di Berlino, dove facciamo reuse delle acque. Per quanto riguarda invece gli altri aspetti, se questo è quello tecnico, volendo andare sugli altri, quelli più culturali ed economici? Sull'aspetto economico, per esempio, bisogna ripetere l'importanza di una tariffa adeguata, sia per l'aspetto di contenimento dei consumi, sia per consentire adeguati investimenti. Per esempio, per quanto riguarda l'aspetto l'utilizzo agricolo, che rappresenta fino al 50% dell'uso delle acque, abbiamo oggi una tariffa spesso a forfait di 52 centesimi al metro cubo, che ovviamente è una tariffa bassissima, e questo non aiuta a sensibilizzare la popolazione al rispetto e al risparmio dell'acqua. Visto che voi lavorate in Europa, quali sono le tariffe per l'uso agricolo più diffuse? È spesso molto diverso, però la cosa significativa è il fatto di essere o no a forfait. È importante di pagare veramente l'acqua usata. i consumi a forfait, ognuno capisce bene che non è un modo pedagogico di fatturare l'acqua. Quindi l'aspetto economico, la tariffa dell'acqua che va adeguata al consumo che uno ne fa e anche al valore stesso dell'acqua. Al valore stesso e bisogna anche aggiungere ai fabbisogni di investimenti che sono in Italia altissimi. E poi forse l'aspetto culturale che su questo punto di vista è forse il più importante. Bisogna sicuramente investire in campagne di comunicazione, di sensibilizzazione dei consumatori, a cui vanno sicuramente indicati comportamenti atti sia alla riduzione del consumo e degli sprechi. Ad esempio, nel 2007 abbiamo fatto con la nostra filiale di Sestri Levante, durante il periodo estivo, abbiamo fatto una campagna con lo slogan "Ogni tanto una goccia di avarizia non guasta". E questa campagna aveva qualche consiglio per una gestione oculata della risorsa. Dobbiamo dire che ha avuto questa campagna ottimi risultati. Questa campagna possiamo immaginare di fare questo tipo di campagna a livello nazionale. Sicuramente sarebbe un elemento importante. E senta, in queste aree in cui siete presenti, per quanto riguarda le infrastrutture, gli interventi sono stati a vostra cura? Ovviamente dipende dai contratti, però spesso gli investimenti sono a nostra cura. Sempre, quindi per prendervi in carico questa gestione integrata dell'acqua avete preso in carico anche le infrastrutture? Sicuramente sì, con ovviamente un controllo molto molto attento della parte pubblica, concretamente dell'ATO. Ambito territoriale ottimale, che ha la gestione, che ha la responsabilità di infrastrutture in termini strategico. La parte pubblica a cui abbiamo appena fatto riferimento la rappresenta in questa puntata Filiberto Zaratti, assessore all'ambiente della Regione Lazio. Non era granché l'acqua della sua regione fino a qualche tempo fa, ora è molto migliorata, ma gli abbiamo chiesto che si fa in Lazio per raggiungere l'obiettivo europeo dell'acqua buona per tutti i cittadini del Lazio. Stiamo lavorando intensamente in questa direzione perché la qualità dell'acqua, diciamo, abbiamo una grande quantità di acqua potabile che ovviamente il peschiere, il pertuso, l'altro sorgente sono il nostro territorio che utilizziamo per le risorse idriche potabili. Insomma. Abbiamo un quadro, diciamo, della qualità dell'acqua in generale che fino a qualche tempo fa era assolutamente preoccupante, ma che grazie anche agli interventi che stiamo mettendo in campo sono interventi che tendono a migliorare questa qualità dell'acqua, anche recependo la direttiva europea, la 2060, che prevede che entro, diciamo, il 2016 la qualità dell'acqua della nostra regione, come del resto d'Europa in verità, deve raggiungere una qualità buona. Noi stiamo lavorando in questa direzione, abbiamo approvato recentemente, siamo la sesta regione in Italia, il piano tutela delle acque, che era uno degli strumenti obbligatori che l'Unione Europea ci chiedeva. In questo piano sono previste tutte le misure necessarie a raggiungere questo livello di qualità buono per tutte le acque della nostra regione e in più abbiamo dotato, diciamo, questo piano del supporto finanziario necessario a essere realizzato. Nel 2007 abbiamo realizzato in Consiglio regionale un fondo speciale di lotta all'inquinamento, un fondo di 365 milioni da spendere in 7 anni, che ha cominciato a operare già, insomma, nel corso dell'anno passato. I primi risultati si cominciano a vedere, tanto che, insomma, uno degli indici più importanti della nostra regione è lo stato di balneabilità delle acque del mare e proprio lo scorso anno abbiamo riaperto 27 km in più di spiagge che prima erano interdette a causa dell'inquinamento. C'è poi un lavoro che immagino dovrete fare anche sulle infrastrutture, voi come qualunque regione italiana, lì come si agisce? Intanto sul piano della qualità dell'acqua, delle acque, è previsto che i gestori del ciclo integrato delle acque del diversi ATO devono investire il 10% del loro piano di investimento a rifacimento delle reti idriche per evitare distrazioni. Questo è un punto molto importante, che è un grande livello di novità anche, diciamo, dal punto di vista legislativo del nostro paese. Dopodiché i 365 milioni, diciamo, un fondo straordinario messo in campo dalla Regione Lazio, al quale vanno aggiunto però i finanziamenti che normalmente gli ATO e i gestori prevedono, diciamo, nei singoli ATO, cioè degli investimenti diciamo, obbligatorio che il punto di gestione mette in campo, che porta questa cifra a 600 milioni di euro. Ecco, tutti questa mole di soldi deve servire a rifare, a realizzare le reti fognarie laddove non ci sono, a efficientare quelle che ci sono, a creare una rete di depuratori moderni, efficaci, che possono depurare le nostre acque e quindi che non ci siano più scarichi nei nostri corsi d'acqua, nei fiumi, nei laghi e al mare che siano altamente inquinanti. Quindi anche in questo caso, se sommiamo questi investimenti a quelli che della difesa del suolo e della costa, davvero nel risanamento ambientale la Regione Lazio investirà qualcosa come 1 miliardo di euro nei prossimi anni. Assessore, approfitto della sua presenza per chiederle, visto l'emergenza che c'è stata per il maltempo in Lazio, che tipo di interventi avete fatto o avete in programma di fare sui fiumi della vostra regione? Intanto va detto che noi abbiamo un protocollo di intesa per il fiume Tevere con il Ministero dell'Ambiente e questo accordo prevede già lo stanziamento di 35 milioni di euro, questi di cui 25 noi li abbiamo già programmati e quindi nei prossimi mesi saranno già disponibili per interventi appunto sugli argini o sul fiume e altri 10 in corso di programmazione. In più, proprio a causa degli eventi del maltempo, nel Consiglio regionale abbiamo presentato una proposta, un piano triennale di intervento per la manutenzione ordinaria di tutti i corsi d'acqua, quindi non soltanto del Tevere, ma anche delle aste minori e anche dei fossi, che sono stato uno dei principali problemi peraltro in questi giorni, che è un piano straordinario di 53 milioni di euro in questi anni appunto per la manutenzione ordinaria. Quindi abbiamo cercato di mettere in moto tutti quei meccanismi finanziari alla portata ovviamente della nostra regione che ci permetta di intervenire non soltanto nell'emergenza, ma che ci permetta di intervenire in modo strutturale per mettere in sicurezza i nostri corsi d'acqua. Quindi per prevenire future emergenze, ecco, più che altro. Assolutamente sì. D'altro canto bisogna anche dire che se il Tevere appunto non ha fatto i danni che poteva causare, è proprio perché in questi anni ci sono stati interventi importanti di quasi 50 milioni di euro che hanno determinato appunto il fatto che la piena, seppur importante, è stata controllata in modo efficace. È tutto anche per questa puntata di Respiro dedicata a Ecopolis, al tema delle acque. Vi ricordo, sul nostro sito internet potete riascoltare questa trasmissione ma anche tutte le puntate precedenti dedicate a Ecopolis o comunque tutte le puntate di Respiro. A risentirci la prossima settimana alla stessa ora. A tutti voi un buon ascolto e ovviamente buone feste da Laura Bettini.